Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Benedette prostitute, salvano le famiglie. In tempi di mancanza di idee, meglio prendersela con loro che con chi fa buchi di bilancio da milioni di euro. Meglio mettere in galera chi si accompagna ad una prostituta piuttosto che un delinquente. In realtà, quanti matrimoni sono salvati dalle lucciole? Pensate a coloro che hanno difetti fisici o hanno problemi di relazione con le donne, oppure non hanno più niente da spartire con la moglie eccetto i figli e i mutui da pagare. Chi veramente può dire, giurando, di non essere mai andato con una lucciola? Sono d'accordo. Il fenomeno va in qualche modo gestito, ma per l'amor di Dio, non mi sembra il più urgente. Semmai basterebbe rimandare via dal territorio italiano le lucciole senza permesso di soggiorno. Già il mercato si sfoltirebbe. Saluti, Massimo. Come fa il sindaco alemanno ad affermare che la maggior parte delle prostitute se n'è andata all'estero? Ha messo forse un ricevitore GPS a ognuna di loro? Leonardo. Egregio direttore, caro Sant'Almassi, volevo scriverti queste poche righe per ringraziarti per tutto quello che hai fatto negli ultimi anni. Non mi giudicare male perché ti sto dando del tu. Il senso del mio messaggio è proprio qui. Tu, con la tua radio e con lo splendido mix di persone e trasmissioni che hai creato, sei stato come un padre, che mi ha aiutato a capire, quando possibile, o almeno interpretare con criticità cosa stava accadendo nel mondo. E l'hai fatto, l'avete fatto, con l'autorevolezza di un padre colto e dalle amplissime visioni, ma anche con l'umiltà e la giusta semplicità che un genitore deve avere nell'educare un figlio. Proprio così vorrei insegnare a mia figlia, che adesso ha 2 anni, come è fatto il mondo. A proposito, dov'è finito Papà Pero? Viva voce, Focus Economia, le lettere, la zanzara, gli innumerevoli GR24 hanno scandito le mie giornate da pendolare. E poi il podcast, il riascolto in vacanza o la sera prima di andare a dormire, la scoperta di splendide trasmissioni che vanno in onda in altri orari, come Jefferson Ming o Melog. Spero che la radio non cambi troppo. Ancora grazie, cordiali e cari saluti, Luigi, 34 anni, Milano. Caro direttore Sant'Almassi, fra pochi giorni lei lascerà la direzione del giornale radio e voglio ringraziarla per quanto ha dato in questi anni alla realizzazione di un notiziario ricco ed equilibrato. Spero comunque che non lascerà definitivamente Radio 24 e tornerà a condurre qualche trasmissione molto speciale, come quella delle 20 dei primi anni 2000. Da quando ho scoperto Radio 24, ho sempre ascoltato le sue trasmissioni, anche se in replica notturna, e qualche volta mi sono anche risentita per certe sue prese di posizione. Ma non per questo, la stima per la sua persona è mai venuta meno. Risponda a questa mia, confortando la speranza di sentirla ancora per molto tempo. Di nuovo grazie, Maria Luisa. In questi giorni si parla molto dell'ondata di razzismo che starebbe investendo il nostro paese. E non manca giorno che venga picchiata o insultata una persona straniera, un immigrato, qualcuno di etnia diversa dalla nostra. Chiaramente del sud del mondo, non certo un tedesco o un inglese. Ma è credibile questa informazione? È contraria alla logica. Vorrebbe dire che 2 mesi fa il fenomeno razzismo, qualunque siano le sue reali dimensioni, non esisteva o era molto minore. Vogliamo scommettere che tra 2 mesi l'argomento non sarà più di moda e tutti i giornali scriveranno di altro? Quant'è che non cade un aereo? Perché, quando tragicamente cade un aereo, per diversi giorni poi continuano a cadere aerei in tutto il mondo? Corrado, Bergamo. Continuando ad insistere sul fatto che il razzismo sia un fenomeno da trascurare in Italia, non si fa altro che alimentarlo. Ayman. Quali sono i casi di razzismo che vengono tanto reclamati sulle prime pagine dei giornali? Vogliamo elencarli? Tornando un po' indietro nel tempo, a Roma ci sono state delle proteste dopo che un delinquente omicida aveva tolto la vita a una signora alla fermata della metro. Razzismo? Non credo. Solo delle proteste dei cittadini che vivono in un quartiere dove la sicurezza è carente. A Parma, un ragazzo di 22 anni è stato aggredito da una banda di polizia municipale mal organizzata e mal amministrata. Tanto è vero che il capo dei vigili è stato rimosso, ma non licenziato. Le sue assurde dichiarazioni, seguite poi da quelle di un malinformato assessore del comune di Parma, che ha dichiarato che a Parma non si usano i manganelli, rendono chiaro il quadro nel quale operano i vigili del comune emiliano. Razzismo? Dov'è il razzismo? È un branco di incompetenti che andrebbero rimossi o limitati a dirigere il traffico. A Roma hanno picchiato un cinese. Oddio, razzismo. Ma quale razzismo? Quasi 3 milioni di abitanti di molte etnie diverse, migliaia di denunce quotidiane per ogni tipo di crimine, dal furto dell'auto alle risse che tutti i giorni si verificano per strada. Poi le guerriglie, tutte le domeniche, dove molti tifosi finiscono in ospedale perché appartengono alla squadra opposta. Questi quattro ragazzini non sono piccoli lord inglesi che fino ad oggi non hanno mai pensato neanche lontanamente di fare a botte. Questi quattro sono dei poveri disadattati di periferia che ieri pestavano uno da Roma, domani uno del Milan e oggi un cinese. Ciampino? Certo, la polizia italiana è famosa in tutto il mondo per la capacità di compiere operazioni nella massima discrezione e diplomazia. Avranno perquisito la signora scura di pelle come perquisiscono tutti gli altri, cioè con arroganza e prepotenza. Gentilini, cosa ha detto di male? Dov'è l'istigazione all'odio razziale? Ha detto che non vuole immigrati clandestini. Ha detto che vuole rispettare la legge. Legge che vieta di fare la pipì per strada. In tutto questo non c'è razzismo. C'è ignoranza, incompetenza, povertà. C'è tutto il peggio del nostro paese. Ma con la ciliegina sulla torta. Emiliano. Cara Radio 24, in questo fine settimana ho fatto il turista a Padova. Città di straordinaria bellezza, dove tante volte mi ero recato per lavoro e che mai avevo avuto il tempo di visitare e di assaporare. La città è ancora più bella e pregna di storia e di cultura di quanto potessi immaginare. Eppure il sapore che mi ha lasciato è amaro come il fiele, aspro come l'aceto. Tutta colpa di alcuni, ma non pochi, dei suoi commercianti con cui ho avuto a che fare. Sono commercianti che mi viene più spontaneo chiamare mercanti, pensando a quelli che Gesù scacciò dal tempio. Mercanti che ti guardano malissimo se chiedi uno scontrino. Mercanti che escono per deridere, insultare, minacciare la mendicante che capita davanti alla vetrina. Mercanti che espongono un prezzo e, facendo finta di niente, te ne chiedono uno diverso. Queste brave persone sono quelle che poi strillano che Roma è ladrona. E per inciso, io sono più nordico di loro, visto che misurano il valore delle persone con la latitudine. Sono quelle che pensano di essere la spina dorsale, la parte sana del paese. Sono quelle a cui l'impunità dei loro referenti politici non fa più sentire il peso della vergogna di cui si sono ricoperti. Ed escono allo scoperto, come i topi di fogna. Aggiungo che a Padova ho visto manifesti che invitano le persone a non acquistare nulla dagli ambulanti abusivi. Perché non dicono di fare altrettanto con i commercianti regolari che non rilasciano scontrini? A costoro voglio dire che Padova, il Veneto, il Nord, l'Italia non hanno bisogno del vostro lavoro e nemmeno della vostra presenza. Chiedo scusa a Radio 24 e ai suoi ascoltatori se mai ascolteranno questo sfogo, ma spero condividiate che il diffondersi e l'esternarsi, senza pudore, di mentalità e comportamenti come quelli che ho descritto, portano il paese all'imbarbarimento, al declino morale, culturale ed economico. Con affetto a questa mia cara radio e a questo mio caro paese. Vittorio. Egregio direttore, le scrivo il giorno dopo che ho seguito in TV su Canale 5 l'intervista al ministro Gelmini. A parer mio non ho visto mai niente di più misero. Era questo tipo di interviste che preferisce il signor Berlusconi per i suoi ministri? Una fila di ragazzetti tutti allineati e intimoriti, la signora Perego che non fa domande ma solo complimenti e le rappresentanze delle scuole private cattoliche a complimentarsi con il ministro e a sottolineare la loro attesa dei soldi alla scuola privata. Allora, visto che ieri non c'era contraddittorio, provo a scrivere a lei quello che avrei potuto dire ieri se avessero dato la possibilità di fare democrazia. Mia moglie ha 40 anni, un concorso vinto, insegnante precaria da 22 anni. Ben 15 anni della sua carriera gli ha profusi nella scuola privata. Unica soddisfazione era sentirsi dire dai genitori: «Maestra, spero di rivederla ancora in questa scuola». Ora sono circa 7 anni che anno dopo anno ottiene un incarico annuale e continua a sentirsi dire: «Maestra, grazie, speriamo di rivederla ancora l'anno prossimo». Egregio direttore, domenica in trasmissione erano presenti le associazioni delle scuole private cattoliche e paritarie, quelle che attendono fondi dall'attuale governo. le scuole che richiedono rette dalle 400 euro a salire, scuole che pagano i loro insegnanti con stipendi medi di 250 euro, dico stipendi medi perché variano da 0 a 500. Per la precisione, si è arrivati a massimo 500 euro, perché si è verificata una certa penuria di insegnanti, visto che molti, per merito o meno, sono entrati di ruolo nello Stato. Immagino che tale somma già dal prossimo anno si abbasserà. Sa perché? Perché molti insegnanti dovranno ripartire dalle scuole private. Questa è la riforma della scuola del ministro Gelmini, o meglio, questa è la controriforma del ministro Gelmini. I miei più cordiali saluti, Pietro da Napoli. Santalmassi, mi spiega perché la crisi finanziaria americana sta condizionando le elezioni americane al punto che, se si votasse oggi, pare che vincerebbe Obama? E perché il piano Bush viene bocciato anche dai suoi stessi compagni di partito, i repubblicani? Marcello Cosenza. Caro Marcello, se permette comincio con rispondere alla seconda sua domanda. Gli americani che credono nel mercato non vogliono il piano Paulson, cioè un intervento di Stato. Impedendo l'intervento dell'autorità pubblica, vogliono punire Wall Street. Ma così facendo lasciano fuori i manager sconsiderati e strapagati e mettono di mezzo i risparmiatori perché stressano l'intero sistema bancario. E adesso risaliamo indietro alla sua domanda e se questo può essere un handicap per McCain. E certo che lo è. Lei si immagina 8 anni di governo repubblicano che finiscono con una crisi così? Le pare possano favorire proprio il candidato repubblicano? Il fatto è che nello staff di McCain, e con la predestinazione a diventare il futuro segretario al Tesoro, cioè il ministro dell'economia degli Stati Uniti, il candidato repubblicano a McCain è un certo senatore Graham. Sa chi è? Il senatore Graham è stato colui che negli ultimi 8 anni ha costituito la sponda politica delle sciocchezze commesse da Greenspan. Graham è stato l'ultraliberista che ha abolito tutti i controlli istituzionali possibili sui titoli cosiddetti tossici, cioè ha abolito tutti gli strumenti possibili che potevano bloccare le cause del disastro finanziario che si sta verificando negli Stati Uniti. È questo che sta consegnando un per ora forte vantaggio ad Obama. Ma voglio ricordarle che al voto mancano 2 mesi e negli Stati Uniti sono un'eternità. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.